Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando brilli e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e buongiorno, buon lunedì a tutti, bentrovati alla nuova puntata di Caffè e Paglia, il contenitore sportivo del lunedì mattina di Radio Città Fujiko. Questa fine settimana senza il campionato di calcio, arriviamo con quell'umore tipico del lunedì mattina post pausa nazionali, che non è quello giusto per fare una trasmissione sportiva, però in realtà alla spicciolata, forse un po' anche per protestare contro questa inutile pausa delle nazionali, stanno arrivando anche i conduttori di questa trasmissione. Fa piacere, non hai neanche le cuffie. Simone, ti ricordi come si fa anche senza cuffie? Mi ricordo. Buongiorno a tutti, oggi io mi faccio arrestare in diretta. No, allora meglio di no, meglio non darti la cuffia e neanche il microfono, questa è la situazione. Comunque, siamo pronti, arriverà anche la stella della trasmissione che tra poco inizierà a parlare, raccontarci questa cosa. In realtà all'interno della giornata ci inventeremo un po' di cose e per il piacere di Simone parleremo un po' di uno sport in cui l'Italia è al primi posti, ovvero il tennis. Sei contento? Questo è un discorso che poi faremo se siete pronti, gigantesco. Okay. Perché le cose sono collegate. Certo. Sono collegate. Più diventiamo forti negli sport in cui non ci dobbiamo scontrare, meno diventiamo bravi negli sport in cui ci dobbiamo scontrare. Okay. Questo è l'analisi del nostro Simone, dopo la racconterà appunto con anche le cuffie di fianco qua a me. Iniziamo la puntata, uno stacco musicale e poi ci buttiamo dentro la puntata di oggi. Buttiamoci dentro questa puntata, non prima di salutare la stella della trasmissione che è arrivato. Ciao Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh ragazzi, cioè qua dobbiamo iniziare a uscire un po' meno in macchina, cioè dobbiamo fare del nostro meglio, perché è bello andare in macchina su una strada di collina nell'Italia di Paolo Conte degli anni 50 con la Topolino Amaranto, se no mollatela lì, basta. Sì, va bene, lasciamo lì, questo è il tema. Simone l'abbiamo già salutato e ha già lanciato insomma, ha scagliato una fatua. Sì, non l'ho ancora scagliata ma quasi l'ha anticipata, e ci sono i legali della radio che sono dietro allo studio, sono arrivati quelli che non conoscete, la valigetta che non ho mai visto. Sì, sono lì e controllano che tu dica cose che si possono riportare all'interno di un programma comunque di sport e costume, ma non troppo costume, ecco, il problema è che qua invece il costume inteso proprio come maschere di carnevale, cazzeggio, coriandoli e niente cose serie, ha preso il sopravvento. Direi di iniziare, partiamo da quello che diciamo può essere la partita. Perché le partite della nazionale erano inutili dal punto di vista dei risultati, diciamo le nostre sì e no. Potevamo vincere 9-0 con la Norvegia per passare il turno, però avendo vinto 2-0 con la Moldavia la vedevo comunque difficile, e siccome erano inutili da un punto di vista di risultati abbiamo deciso di interpretarle in modo che fossero inutili anche da un punto di vista etico ed estetico. Proprio totalmente. Abbiamo deciso di dargliela su, in un certo senso si potrebbe dire. Io invece dico che siamo arrivati a renderci conto che la nostra nazionale non è la nazionale da passare il primo turno delle qualificazioni in Europa, perché comunque ci sono squadre più forti in un girone con Norvegia, Israele, con Norvegia, praticamente solo la Norvegia. È vero, ho sentito anche durante la settimana dire abbiamo preso la Norvegia più forte della storia. Probabilmente è così, è una Norvegia non come quelle che ci ricordavamo. Quelli erano senza Odegaard ieri, gli mancava anche qualcuno, cioè potevano anche averne qualcuno in più. Cioè 9-0 delle due rischiavamo di subirlo più che di farlo, diciamo così. In realtà il primo tempo c'è stata anche una partita, insomma. No, non c'è stata. Loro ci guardavano per il semplice motivo che la Norvegia era palesemente scesa in campo senza nessun tipo di preparazione, almeno a livello tattico. Cioè, era proprio palese. Era proprio palese, e a differenza di quanto andavano millantando i due commentatori del servizio pubblico Rai, e non è che l'asse di Marco Bastoni fosse improvvisamente diventata l'asse, che ne so, Ribéry, Robben, quando uno dei due si spostava da una mano all'altro. No, la Norvegia proprio non ha zero, però non so se se ne è accorto. Lele Adani ha avuto un'illuminazione tipo Fantozzi dal panettiere verso il 64esimo, quando la Norvegia già tipo era un secondo tempo, sono entrati in campo soltanto loro. E il problema è proprio questo, il problema è proprio questo qui, perché non è l'albero calcio che non va più, che non dà più frutti, è che, ne parlavo proprio anche con Fio, è il terreno che è malato. Cioè, non è la pianta albero che non funziona, è il terreno su cui ha messo le radici che è andato. E se noi, un'altra cosa, noi ce lo dobbiamo dimenticare il Mondiale 2026, non è quello il nostro obiettivo, perché se noi crediamo che l'obiettivo è il Mondiale 2026, continuiamo a sbagliare. Il nostro obiettivo deve essere il Mondiale 2030. Se te lo dico quello che penso personalmente, noi non ci andiamo al Mondiale neanche quest'anno. Te lo dico proprio di cuore. Spero con tutto il cuore di sbagliare, ma veramente lo credo. Cioè, lo spero col cuore, ma secondo me non ci andiamo. Perché, come diceva Fio, che ha ragionissima, se tu becchi per sbaglio una nazione in missione, come può essere appunto l'Irlanda del nuovo eroe Parrott, quelli ti fanno il culo. Sì, è malinconica la lettura, è abbastanza problematica, vista così, perché sembra una squadra vecchia, vecchia negli interpreti e nel modo di interpretare il gioco attuale, e non spicca né per letture, né per fisicità, né per voglia soprattutto, e il rischio adesso è di incasinarsi abbastanza il cammino e passare l'estate a guardare i mondiali di nuoto, il tuffo dalla piattaforma sincronizzato, che butta via, butta dopo via, pranzo, è uno spettacolo, dopo pranzo ti metti là, fai come dicono gli spagnoli, è un altro degli sport in cui siamo in crescita e si presta molto al sobremesa, cioè a rimanere a tavola dopo pranzo a oltranza 4 ore fumando, bevendo molto anche, pasticcino qua, digestivo là. No, è ovvio che il livello della nazionale è questo, è un livello basso, medio, diciamo, medio basso. E avevamo parlato bene dei portieri, che forse è l'unico ruolo in cui storicamente non abbiamo mai avuto problemi. Le dovremmo farle giocare, esatto, almeno 2 su 11. Dovremmo cambiare il regolamento, potremmo schierare. Da così tanti che le potremmo giocare con 2 portieri, in realtà difesa, centrocampo e anche attacco, diciamo così, c'è molto da lavorare. Molto da lavorare perché sono pochi giocatori di alta qualità. Bastoni della Serie A sembra Beckenbauer, Beckenbauer, da come lo raccontiamo, ma non è Beckenbauer. È però perché il livello della Serie A è quello. Quando vai in Europa vedi che fai fatica, ma anche nelle coppe europee, diciamo così, in, esatto, questo momento. Guardavo la classifica, il Paphos è davanti a Napoli e Juventus in Champions League. Clamoroso Paphos. Paphos, l'abbiamo iniziato a conoscere. Ha fatto sembra il nome di una ditta di materassi, invece sì, è una squadra che ha fatto delle conference, me la ricordavo così. Invece in Champions League e ha fatto più punti del Napoli e della Juve, non di squadre appunto di livello. Il problema è che il livello del calcio italiano tutto si è abbassato. Ed è basso in un punto preciso della scala, ok? È basso, è un buco tremendo nel momento in cui entrano in gioco i tecnici federali, cioè gli uomini preposti allo sviluppo del giocatore quando arriva in un'età in cui deve entrare tra i pro. Ok, la cosa più simile ad un centrocampista spagnolo qualsiasi, perché tornano, sono tutti fortissimi, che abbiamo in Italia, gioca nel Monza. Alessandro Bianco è la cosa più vicina a un centrocampista spagnolo, e dove sta? Nel Monza. Antonio Vergara, che forse giocherà nella prossima partita, ha dovuto aspettare che morissero tutto il centrocampo del Napoli, ma è il giocatore col più alto livello tecnico di tutta la rosa del Napoli, e però Conte si caga addosso. Cangianiello sta in Serie C nel Sorrento, dove è costretto a fare l'ala destra, lui che è una mezzala, regista, trequartista, preferibilmente a sinistra. Non so che dire, cioè il problema è quello, se tu vuoi davvero fare una cosa seria, tu fai tabula rasa stamattina, perché tanto il 2026 è andato, anche se ti dovessi qualificare, vai a fare una figuraccia, quindi è andato, ok? T- ti liberi del match e cominci a promuovere Viscidi, cominci a promuovere Nunziata, cominci a promuovere Gianni Chedda, questa gente qua. Conoscendo il livello italiano in questo momento, la cosa che immagino in questo momento negli uffici, no? Qual è il discorso? Speriamo ci dia il sorteggio, ci dia qualcuno di scarsa. Sì, questo sì, è. Sì, sì, la mentalità dei Gravina, di sta gente qua. Gattuso, che è l'esatto contrario di quello che sembrava essere come giocatore, anche come uomo, posso dire, è veramente una delusione. Cioè, sembrava il classico uomo un po'. Voglio dire una parolaccia, tra virgolette, sinistroide, non so se mi intendo, tutto anima e cuore, tutto grinta e persevera, e invece no, è l'allenatore più paraculato della storia d'Italia, probabilmente. Sì, chi si aspettava un segno di discontinuità con la nomina di Gattuso è rimasto deluso, inevitabilmente, perché comunque è molto nel solco di questa nazionale che si piange un po' addosso. Spiace, però quello che vediamo lo fotografa il momento, ecco. Eh sì, questo è quello. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, se noi continuiamo ad affrontare un problema che è tecnico e invece lo cominciamo sempre ad affrontare partendo da una posizione di emotività, cioè voglio dire, noi dobbiamo lavorare sul calcio, proprio a livello di lavoro che fai nel rettangolo verde, strutture, allenatori, crescere allenatori, e invece cerchiamo sempre il piano emozionale, cioè chiamiamo Gattuso perché lui sa trasmettere lo spirito della nazionale, l'emotività che ci vuole per incarnare determinati valori della maglia azzurri, ma che cosa si sta facendo? Non c'entra nulla con quello che devi fare in campo, non c'entra nulla. Silvio, ditemi perché Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell'Under 21. Perché il rito dei playoff con Pescara ha fatto quel discorso malinconico, anche un po' fascio, posso dirlo, anni 70-80. Questo perché solo per questo motivo che ha preso questa panchina, che dovrebbe avere Nunziata. Gianni Chedda non dovrebbe allenare la Lega Nazionale Dilettanti, Gianni Chedda dovrebbe allenare l'Under 21 dell'Italia. Stefano Viscidi dovrebbe essere il capo suprema dittatoriale di tutto il settore calcio italiano, invece no. L'Italia Under 17 sta facendo i numeri anche lei. L'Under 20 e l'Under 19 hanno vinto tanto negli ultimi anni. Siamo fortissimi. Un Samuele Innassio farebbe già parte delle rotazioni della Spagna Under 21, sicuro. Arena, sicuro. Su Camardo non avrebbero perso tempo. È buono? Non è buono, lo proviamo subito. Coleoscio deve giocare. Tu a destra non sei più presentabile con Di Lorenzo a nessun livello. Tu in questo momento, se vuoi fare una cosa seria, prendi Palestra e Caiodè e li alterni partita per partita. Finché uno dei due non diventa un giocatore della Madonna, e uno dei due lo diventa, se c'è qualcuno in grado di farceli diventare. Se no, noi continueremo a saltare i mondiali, così. Eh sì, il vero problema, appunto, questi giovani che magari sembrano che non crescono, a un certo punto smettono di crescere perché non giocano tendenzialmente. Allora, ci viene incontro la Gazzetta, l'house organ del calcio italiano, che quando si tratta di parlare di calcio l'importante è non parlare mai di calcio, quindi c'è già quel articolo predittivo e malinconico sulle prime avversarie della prima partita di playoff, lo scopriremo giovedì, che l'Italia potrebbe incontrare nella lotta per la qualificazione mondiale. Io mi aspetto, indipendentemente da quella che sarà la sorteggiata, poi una di quelle retoriche da sconfitta rugbistica, cioè in cui comunque alla fine se vinco loro perché sono dei fenomeni, se perdiamo noi è andata così, è molto malinconico, ma da qualche parte dobbiamo pur ripartire e ripartiamo da qua. Parliamo di Svezia, Romania, Galles, Macedonia e Irlanda del Nord. Viene segnalata come la Svezia la più temibile di tutti. E anche la Romania, che è una di quelle con la più alta percentuale di probabilità di essere la prossima avversaria. Cioè, un articolo del genere, hai già perso, cioè, allora, adesso scappa qualche parolaccia davvero, cioè, tu facendo un articolo così stai cominciando a perdere. Cioè, non so più come cazzo spiegare, tu hai già perso, ve lo ripeto, noi è molto probabile che non andiamo, perché ognuna di quelle, l'Irlanda, te lo ripeto, stanno talmente cariche per aver fatto un cazzo di miracolo a 114esimo minuto in Ungheria, che tra l'altro indossa la divisa che dovremmo indossare noi, però lasciamo perdere. La Romania, di solito la Romania, c'era sempre quel giocatore super mega, adesso non mi viene in mente, magari mi sfugge, ma sono sicuro che ce ne avrà almeno un paio di ipertecnici. Il Galles, vai a giocare in uno stadio da 110.000 posti. Dove hanno voglia e spirito nazionale, va, lo dai, sento, va. Tanto. E, tra l'altro, insomma, la Macedonia poi è quella che ci ha eliminato l'ultima volta, quindi non è che la situazione è quella. Ringraziamo comunque la Gazzetta dello Sport che ci permette di fotografare il momento con una accuratezza che noi, uomini della strada, non grandi critici di calcio, come del resto sono loro, non avremmo mai potuto avere, specialmente nel post all'intervallo della partita di ieri. al 45esimo si va negli spogliatoi a bere un tè caldo, come dicevano i vecchi FIFA, la Gazzetta dice: dov'è finita la Norvegia macchina da gol? E sul parziale di 1-0 per l'Italia propone una slide di un volitivo Gattuso con delle statistiche che in quel momento raccontano di un'Italia che sta facendo la partita. 1-0 poi finirà 1-4 per gli altri, però questo è proprio l'approccio, un approccio molto italiano, molto gattopardiano, che vive anche della nostalgia in cui, del momento in cui il calcio italiano era uno dei campionati più belli del mondo, poi dopo eri molto ricco ma non sapevi fare un cazzo, adesso sei messo così. Ma poi devo sentire quell'altro impiastro che ormai cura solo i suoi capelli, ce l'ha ancora tutti, beato lui, cioè ho sentito quell'impiastro. Adesso lo conosci a Pio, l'abbiamo sentito tutti in diretta, milioni di persone l'abbiamo sentito. Ma tu puoi andare a roppi coglione ad Erling Haaland? Cioè, davvero, quanto puoi essere stupido per andare a rompere i coglioni a quello che in questo momento è il più forte centravanti? Cioè, chiuderà tipo a 2000 gol, una cosa del genere. Come ti viene in mente? Però nel primo tempo non ha performato, perché l'ha detto dopo in conferenza stampa, Mancini gli toccava il culo e lui è rimasto perplesso da questa cosa. Siamo a questi livelli qua. Tra l'altro, uno che ha il difensore che gli tocca il culo e quell'altro che gli urla in faccia, adesso lo conosci, lo carichi a mille. Ma è uno che già di suo. Non c'è una parola abbastanza grossa per identificare la tua stupidità. Cioè, perché quando dico che Torino è malato, adesso siamo un attimo seri, è perché oltre al lato tecnico federale, proprio a parlare di giocatori e uomini, è malato anche tutto quello che c'è intorno al calcio italiano. Cioè le telecronache, gli articoli dei giornali, la cronistoria di come vengono riportate le cose, l'occupazione perenne delle poltrone. Un gravina, cioè, dovrebbe essersi rimesso tipo già un paio di volte fa una cosa del genere, e invece no, continuiamo, ma tanto vedrai che continueremo così, non succederà nulla. Sì, devo avere quell'altro pazzo scatenato di Bonucci dietro Gattuso che fa solo le sceneggiate da ultra, cioè, e sai perché le fa? Per colpa della pirateria. Certo, hai ragione, è la pirateria che tutto sta uccidendo. Questo uccide il calcio, ricordiamolo, il Pezzotto fa giocare male la nazionale. Il Pezzotto ti manda con Di Lorenzo e bastoni su Haaland per 60 minuti di partita. Eccolo lì, è tutto colpa della pirateria. Va bene, questa è una delle idee che sta girando negli uffici della FIGC, uscire con questa frase. Adesso siamo in diretta, abbiamo una piccola webcam e lo stanno pensando. Rientriamo in diretta al Caffè Paglia in questa puntata un po' particolare all'interno della pausa delle nazionali, anche la top 5 non poteva che risentirne, diciamo così, di questa situazione. La top 5 di oggi è metatestuale, cioè meniamo un po' il camperlaia, dobbiamo stare sul generale, e la maggior parte dei punti della top 5 saranno proprio di ambito generale. Nello specifico però ci sono due punti che vogliamo dedicare a due eroi non abbastanza raccontati, o almeno non lo erano sicuramente fino a qualche giorno fa, del percorso verso la Coppa del Mondo. La fai, non la fai, lo sai, boh. Due di questi punti in top 5 sono dedicati a situazioni specifiche o giocatori, allenatori, persone che hanno squadre che hanno segnato dei punti importanti nel loro percorso di crescita. Io aprirei questa top 5 parlando di De Leo. Vi ricordate De Leo e Taniga? Ve li ricordate? È l'ex portiere, è lui il vice lui, di Sinisa, con l'Avellino giocava, se non mi sbaglio, qualcosa del cielo. Adesso è l'allenatore di Malta. Bel posto, Malta. Non pareri, mai stato, ma mi dicono pareri discordanti in redazione su Malta. Io amo Gozo, cioè che è l'isoletta sopra, perché poi uno dice Malta sono tre isole, ma io l'ho scoperto andando a Malta, figurati. Io neanche lo sapevo, l'ho scoperto adesso. Ecco, io sono arrivato e sì, noi già abbiamo tre isole. Ah sì? Io uno dei pochi complessi di superiorità superba che vivo tanto è la superiorità sotto ogni punto di vista della Sicilia rispetto a Malta, ma questa è un'altra cosa. Della Sicilia rispetto a tutto il resto delle terre emerse. A molto di quello che c'è in giro. Sì, metti la metà degli autobus che sono a Malta, li metti in Sicilia, hai risolto il problema della Sicilia. Però senza con la ponte, metà, senza ponte. Basta quegli autobus che ci sono a Malta. È devastante il ruolino di Malta nelle qualificazioni mondiali, perché ha fatto due gol e ne ha subiti 16, ma fa uno scalpo importante, vince contro la Finlandia, è la prima vittoria della storia dell'umanità, non è vero, per una squadra contro una squadra di fascia decisamente superiore per Malta, e quindi diamo un'abbracciatona ai ragazzi di De Leo. Bravo, bene, bravo, bene, bene, segniamolo il primo così, posto, veloce, l'abbiamo così. Messo. Al secondo? Ah, contiamo queste storie di piccole, di queste belle, oh, belle, belle. Un'altra belle. Storia piccola che ti emozionerà è una storia che inizia con un gol di Szoboszlai, giocatore fortissimo, stronzo come la merda. E, no, vabbè, ti vogliamo bene calcisticamente, poi forse dal punto di vista umano abbiamo poco da imparare. Segna, porta in vantaggio l'Ungheria. In una salutiamo partita, la moglie di Szoboszlai che ascolta sempre la trasmissione. Sempre con noi, grande. E la... il gol che apre le marcature in Ungheria, Irlanda, lo segna lui e decide per un'esultanza irridente, un posto per le righe, anche non troppo motivata, perché devi far così, facendo il gesto wè dei bambini che piangono, si stropicciano gli occhi con le nocche, quando porta in vantaggio i suoi ragazzi per il momentaneo 1-0. Ora non vi stiamo a raccontare che il risultato viene ribaltato totalmente con una tripletta dell'eroe di giornata. L'eroe di giornata che è un giocatore di quelli di cui non avremo mai occasione di parlare se non fosse per le pause nazionali, quindi un po' gli dobbiamo a queste pause anche nazionali. Perché aveva già fatto doppietta, se non mi sbaglio, con Portogallo addirittura, se non mi posso sbagliare. E quindi Troy Parrott entra di prepotenza nella nostra top 5. Ho visto le immagini delle reazioni dei tifosi dei vari pub di Dublino con questo gol al 145esimo minuto, davvero festa clamorosa. E niente, cioè, è veramente la presenza più importante scintillante nella top 5 di oggi, perché è una di quelle cose che succede davvero raramente. Quindi adesso l'Irlanda è qualificata per i playoff, l'Ungheria, che ricordiamo è un'antichissima scuola di pregiatissimo calcio, di enormi fuoriclasse, con una divisa appunto diciamo stupenda, e però resta a casa. Tra l'altro in settimana è uscita sulla Gazzetta un'intervista a Lajos Dettari, che è storico appunto giocatore, in particolare qua a Bologna, in cui è andato malissimo, nel senso che retrocesso subito, però ha fatto un gol, mi ricordo, da 35, una punizione da 35 metri, la messa di incrocio contro il Bari, mi dicono dalla regia, vedi? E quindi insomma gran gol e gran giocatore. Parrott tra l'altro gioca nella Z Alkmaar, che è società di riferimento in Europa sul come si lavora, come si costruiscono le squadre e come si fa anche il trading dei giocatori, perché comunque con un budget assolutamente non paragonabile a quella delle storiche del calcio fiammingo, diciamo, olandese, di quel pezzo di mondo là, sta facendo molto molto bene, sta facendo scalpi importanti. E produzione anche di giocatori importanti, per quello è quello che poi serve per far migliorare il calcio in generale. Collaborarono anche con Billy Beane, l'originale, cioè l'uomo su cui ha fondato la storia di Moneyball con Brad Pitt. Hanno collaborato, lo usarono come collaboratore esterno, se non ricordo male, cioè è una società proiettata al futuro che sa progettare. Parrott appunto è stato educato in questo tipo di scuola qua, e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, ma dopo si vede il giocatore che è veloce a capire lo spazio da aggredire, con quale tempistica, dove posizionarsi inizialmente per poi andare ad aggredire quello spazio dove ha imparato a usare i tempi giù, cioè dopo è un circolo virtuoso. Cioè tu devi partire proprio da, tu devi fare quel tipo di progetto lì, speriamo. Questo è appunto il tema. E, andiamo avanti. Non ci sono la tripletta di João Neves contro l'Armenia. Queste cose non ci sono in questa top 5. Non c'è neanche la partita più in odor di calcio scommesse di questa tornata di qualificazioni, che è stata Israele-Moldavia. E, non c'è, non parleremo di queste cose. Adesso proprio inizia la parte generale, metatestuale, iniziamo a menare il camperlaia. C'è una giustificazione, meneremo il camperlaia e lo faremo con tanta gioia perché è divertente. Però c'è un motivo serio, perché il problema che abbiamo con il calcio italiano è macro. E quindi tu, quando devi approcciare un discorso macro, almeno delle prime volte, devi avere una visione più larga possibile, se no non riesci più a inquadrarlo. Ecco, volevo solo precisare questo. Allora, partiamo da lontano. La formula del mondiale. La formula del mondiale è stata ampiamente criticata. L'allargamento è a 48 squadre. 48 squadre sono più squadre di quelle che hanno fatto i mondiali finora. E allora perché piangiamo così tanto? Perché è più difficile per noi arrivare al mondiale? Perché siamo scarsi? Sì. Ma la polemica tra i grandi critici di calcio è sulla partecipazione delle squadre per federazione in giro per il mondo. Le squadre europee UEFA che parteciperanno ai mondiali saranno 16. Noi facciamo fatica ad arrivare in quelle 16. Perché l'allargamento non ha premiato le squadre europee, dice l'occhio colonialista storico, quello che vuoi, quando parla di questa cosa. Perché c'è un allargamento ad alcune federazioni che sono comunque in crescita nel loro modo di giocare a calcio. Sono troppe le squadre asiatiche? Secondo me no, per il semplice motivo che sono tornei che seguo spesso, e le varie qualificazioni della Coppa d'Asia per i mondiali. Se qualcuno vuole fare lo sforzo di andare adesso su internet, ci mette due minuti, e controlla il palmarès del settore giovanile dell'Uzbekistan degli ultimi 4-5 anni, capisce che noi invece siamo in un mare di guai. Se uno fa questa cosa è in mezzo al perché dopo vedrà tutte quelle medagliette che vede accese, anno 2021-22, un sacco di medaglie, io l'ho viste quasi tutte in diretta, quindi l'ho visto proprio tecnicamente i giocatori. Te ne cito uno, si chiama Karimov, ok? O Labergan Karimov si chiama, l'ho visto che era 17 anni, pesava tipo 50 kg con tutti i vestiti, minuscolo, sai, un anerottolo, veramente uno sgrigio, ma proprio uno sgrigio, con un sinistro che era una katana ed era uno di quei meno. Era uno di quei meno, ok? Con un sinistro che era una katana. Allora, se questi movimenti minuscoli sono talmente bravi che però riescono a crescere così tanto, così bene a livello qualitativo, secondo me è giusto che vadano loro a giocare a calcio e non noi. Questo... il calcio è democratico, voglio. Allora, l'unica cosa, credo che non ci sia più, amo i regolamenti, ma non ho studiato a fondo il regolamento di questo mondiale. Una volta c'erano le sfide tra gruppi extra gruppi, cioè nel senso, lo so, una australiana, una dell'Oceania si sfidava con una del Sud America, un'europea giocava con quello, forse potrebbe essere un po' un modo per riequilibrare, lasciando alcuni posti in cui si sfidano un'asiatica e un'europea, per dire, no? Le ultime non corrette, però tendenzialmente, insomma, questo è il fatto che i mondiali, per crescere e per incassare più soldi, perché è l'unica cosa che interessa anche ai calciatori, alla fine è quello, deve allargarsi anche a mercati che sono grandi. Leggevo un articolo sulla Cina che sta riprovando a lanciare il calcio in Cina, perché a Xi Jinping gli piace molto il calcio, fondamentalmente. Ma stavolta pare che l'ha fatto la cosa giusta. E vedrai, sono miliardi, ti pare che non ce la faranno anche loro? Anche sono solo miliardi. Il pensiero che quelli che si definiscono tifosi di calcio in questo momento, non è molto popolare, sono 280 milioni. Ed è la minoranza assoluta. Sì, certo. Sono 280 milioni. Ma anche quando invece riusciranno, perché ci riusciranno. Ce l'ha fatta l'Uzbekistan, ti pare che non ce la fa la Cina organizzarsi bene? Io invece sono molto favorevole, se gli altri lavorano meglio di te, oh raga, perché guardate che anche la scuola giapponese, della Corea del Sud, questa è la Turchia che è sempre collettivamente, il calcio ad est, a parte quelle che erano già forti di loro, guardate che cresce, e cresce tanto. Anche l'Australia sta crescendo, anche Israele ha avuto un momento di crescita, soprattutto 5-6 anni fa, che l'ha portato comunque già a livelli discreti. Se gli altri lavorano meglio di te e tu continui ad avere Gravina e Gattuso e la tua progettualità è quella lì, è quella, speriamo di avere un buon sorteggio, questa è, esatto, diciamo, la linea, esatto, è quella lì, speriamo di avere un buon sorteggio e infilarcisi dentro a questo mondiale, per poi non so che figura fare, perché poi anche se vai al mondiale non è che... Poi è vero che sono un po' come gli europei di Mancini, forse la più grossa botta di culo della storia della nazionale di calcio. Però non rubo niente, cioè gioco bene, cioè, sì, non è colpa nostra se le altre fallirono, okay? Però una roba proprio, giocavamo bene. Sì, sì, sì. No, non giocavamo bene, c'è la verità, però è veramente una cosa impensabile, e soprattutto guardando i risultati delle altre competizioni nello stesso periodo, fondamentalmente. Comunque, questa è la formula. Volevi aggiungere qualcosa sulla formula? Ma no, ci sono tre nazioni ospitanti che comunque sono già tre posti blindati, quindi il conto da 48 poi lo sentiamo semplifichi sì, velocemente. Ovviamente quei due posti lì, diciamo, di solito è uno che organizza e quindi diventano tre, quindi hai tolto due posti per poter da distribuire. Però resta il fatto che in Europa sono 16, devi entrare le prime 16, cioè sono un numero. È alla tua portata, sì. Sì. Raga, ma tu in bacheca c'hai 4 mondiali, 2 europei, più tutta la roba che vinto l'Under 21, un po' di palloni d'oro a destra e a sinistra, un po' di coppe campioni sommate ce l'ha. Cioè, non è che si parla di un movimento che non c'è, che sta lì per sbaglio. Se gli altri ce la fanno, sei tu. Guarda che l'anomalia nel calcio internazionale siamo noi adesso. Non so se è chiara la situazione, siamo noi che siamo l'anomalia in negativo. Sì. Ricordo dei grandi nomi europei, ricordo una Germania che fa mondiali fallimentari e da lì ricostruisce completamente il mondo del calcio e va a vincere. Quando hanno perso con noi nel 2006 hanno riorganizzato tutto. Vi faccio un'altra domanda facile. In Germania hanno una cosa stupenda che noi non abbiamo. Loro hanno allargato la possibilità di diventare un allenatore di calcio a chiunque. Anche a me che cucino, a Fio che fa un altro lavoro, a chiunque. Il panettiere domani mattina si alza e vuole andare, lo va, fa. Qua da noi, no, devi essere stato un ex calciatore. Perché dopo, vedi, è il cane che si muove la coda. Se tu per anni sviluppi quel tipo di allenatori lì che fanno sempre parte dello stesso identico circolo, allenati nello stesso identico brodo, alla fine i risultati sono questi. Che sai che è l'unico civile che può allenare in Italia? Floris. Perché ogni tanto Coverciano decide di rilasciare una licenza speciale a chi si è distinto nei vari settori di lavoro. Floris, il conduttore, proprio lui, ha preso il patentino da allenatore. Ah, cioè, lo sapevo. Sì, sì, no, funziona così, mi spiego. Diamo la nazionale a Floris. Guarda. Dopo Gattuso, Floris. Per dire come funziona, il problema è per dire come funziona male qua da noi è questo. E infatti andiamo al prossimo punto, Road to 2030. Quando io facevo le superiori c'era Agenda 21 che voleva preparare la classe dirigente di dopodomani ai grandi traguardi di riduzione di impatto ambientale, cambiamento dei modi di produzione per il 2021. Il 2021 è passato, è diventato 2030. Il mondiale del 2026 lo stiamo trattando come lo stiamo trattando, pensiamo a quello del 2030. Floris in panchina. Abbiamo scelto la realtà. Per il 2030 ripartire con Floris in panchina. Beh, ci dai tu 4-5 giocatori che saranno in questa squadra di Floris? Tu conosci bene Floris e quindi sai che questi 4-5 nomi non mancheranno. Io credo che, ripeto, a destra tu devi cominciare a diventare forte e quindi, ripeto, prenderei quei due ragazzini, i più bravi che hai in questo momento, Palestra e Cagliari e Caiodè Fiorentina, e li alterni, li fai giocare. Filippo Mane, difensore centrale del Borussia Dortmund, devi cominciare a provarlo, perché non puoi credere davvero che il top dei tuoi centrali siano Bastoni e non so chi, Acerbi, per dirti. C'hai ancora Gatti. Acerbi, no. Gatti. Capito, mi spiego, bravo, hai fatto il nome giusto, hai fatto il nome perfetto, hai fatto il nome che rinchiude, cioè che racchiude proprio fisicamente cosa c'è che non va qua da noi. Cioè devi cominciare a capire che Alessandro Bianco non può stare in Serie B, che non so se avete visto il gol di Pisilli con l'Under 21. Cioè un ragazzo che ha un numero così deve giocare, deve mettere chilometri nelle gambe. Noi dobbiamo ripartire, ripeto, da zero, da capo con i ragazzini, e dobbiamo smetterla di fast clienti. Sembra una cosa più da clientela vecchia, sono sempre gli stessi che ci si gira le panchine. Tu fallisci in un progetto, ti danno la Juventus. Sì, questo di Spalletti è veramente clamoroso. Vergara sicuramente ce lo metterei per il 2030. È il mio giocatore preferito, lo sappiamo, è proprio il mio giocatore insieme a quell'altro che sta a Sorrento. È un giocatore, guarda, mi sono quasi stancato a Tino Tanto, prima o poi dovrà giocare. Cioè, è un codardo Conte e l'abbiamo capito, però è un giocatore troppo bravo, non può continuare a stare fa panchina, anche perché è un Napoli che è bruttino ultimamente. Sì. No, ti serve qualcuno che ti dia e ce l'ha quel ragazzo lì, qualcosa deve, io non so, davvero non so più che dire, ce ne abbiamo tanto di talento a disposizione, non riusciamo a farlo venire fuori. Segnalo, visto che sei partito dalla corsia di destra, per la corsia di sinistra il nome di Honest Anahor, che ha una vicenda sui documenti molto interessante, perché è nato in Italia ma non è ancora cittadino italiano perché è minorenne. E quindi, sì. E quindi questa è una cosa che a noi ci ammazza, ma vada fiù, continuano tu il discorso. No, è la pastoia burocratica in cui si trovano chiusi dentro centinaia di migliaia di persone in questo paese che non hanno la cittadinanza nonostante facciano un ciclo di studi completo, finché non gli viene concessa, così come se fosse il monarca del 600 dopo il compimento della maggiore età. Gli altri movimenti, questi problemi non ce l'hanno. Faccio un altro nome. Ti serve qualcosa in attacco di brillante che sblocchi tutti? Adesso Pio Esposito è buono, però lasciatelo stare, sto ragazzo. Non può essere che ogni volta che tocca un pallone è il nuovo Gigi Riva. Basta. C'è il ragazzino del Verona a Catanzaro, a Fabio Cissé. Fortissimo, ne abbiamo già parlato quando era ancora nel Verona Primavera. Super elettrico. Samuel Innas, tutta l'anno del 17, perché pure Arena è forte, forte. Cioè, è pieno di ragazzini fortissimi, però devono giocare, devono sbagliare, devono giocare, devono sbagliare. Le altre non ci hanno paura. La Francia saltò a due mondiali, anche loro. Decisero di spostare il centro da Vichy a Clairefontaine, modificarono l'impostazione, prima era un po' troppo militare come educazione, decisero di integrare di più il lato tecnico con il lato educativo. E se tu prospetti, se tu crei una cosa del genere che garantisce un prospetto di vita migliore, soprattutto a quei ragazzi che poi ti arrivano dalla Baglia di Parigi, dalla Baglia di Marsiglia, capito? Se tu con un progetto serio, perché era questo che ha fatto la Francia, creando una situazione seria che ti garantiva una prospettiva anche non per necessariamente di calcio giocato, ma anche di allenatore, procuratore, quel giro lì, tu che arrivi da una situazione magari difficile e c'hai talento nei piedi, vieni fuori per forza, perché ti si mangia la voglia di uscire dalla situazione in cui sei. Hai capito come cazzo si progetta un terreno serio, fertile? Oh, la Francia, la quarta squadra della Francia è la titolarissima di qualsiasi altra competente europea, eh? Hanno numeri importanti. Poi abbiamo visto e ne abbiamo parlato di esempi come lo Strasburgo, di squadre che militano nel campionato della Serie A, diciamo nella Liga in quel caso, e giocano così con i giovani e giocano il campionato, non è che fanno la seconda squadra o l'Under 23 in cui comunque di cui si sa poco, alcune anche, una è retrocessa per dire, il Milan sì, è sceso in D per dire, quindi insomma evidentemente non c'è stato dato quell'attenzione che meritavano, no, in un progetto di quel tipo. E siccome andiamo a chiudere la top 5, cerchiamo col lanternino, girando per gli angoli di notte, l'identità estetica del calcio italiano. E siccome c'è la pausa delle nazionali, la andiamo a cercare dove? Nelle minors, in Serie B e in Serie C. C'è ancora un'estetica riconoscibile del calcio italiano? E soprattutto c'è lì? Allora, tante volte qua abbiamo scherzato in questi studi, quante volte ho paragonato, quante volte mi sono uscito con una battuta tipo: oh raga, ma il Mantova di Possanzini al Southampton dell'anno scorso gli rompeva il culo. Quante volte, ma l'avete fatta, me l'avete sentita di? Però io quando scherzo, poi non è che scherzo così, perché quando affermo una cosa del genere io lo dico con un buon 40-50% di verità, cioè ci credo a quello che dico, perché esistono la Cremonese di Pecchia, il Mantova di Possanzini, il Catanzaro di Vivarini, ok, sono tutti progetti, sono tutti nomi di gente che ha dato un'identità di gioco ad una squadra di Serie C, ripeto, di Serie C, però fantastica, velocissima, super moderna, con le rotazioni che tu puoi avere soltanto magari a determinati piani del calcio europeo, e sono cose che fanno bene, sono cose che io in Serie A non vedo. Allora, abbiamo giocato, la mia Samba ha giocato un paio di domeniche fa contro il Guidonia a Montecelio, squadra del Laziale, se non mi sbaglio, Roma, quelle parti lì. Parliamo di Serie C, parliamo di una realtà veramente piccola, piccola, piccola, che però giocavano a calcio fiuto, l'avrei fatti vedere, costruzione dal basso, sempre a cercare di creare il rombo per permettere una distribuzione perfetta del pallone al portatore di palla, sempre la sovrapposizione sulle fasce, sempre larghi ad occupare il campo bene. Sarà Serie C, eh? Serie C, una cosa che io in Serie A oggettivamente, ripeto, faccio veramente tanta fatica. Allora, se noi esprimiamo il meglio sotto, Serie B, in Serie C, e la rappresentativa nazionale, Lega Nazionale Dilettanti, allora la mia domanda è: sarà il caso di andare a vedere là sotto qualche nome? Sarà il caso di cominciare a capire che fosse lì che sta la nostra ricchezza insieme ai ragazzini che ci abbiamo fortissimi? Perché, cioè, ripeto, se noi continuiamo a chiedere allo stesso procedimento di darci un risultato diverso da quello che ci ha dato fino adesso, cioè non vai ai mondiali, continua dare testate contro il muro è più forte di te. E quello si ferma. Alla fine sì. Il muro rimane lì fermo, e questo è quanto. Ma infatti, quando in Inghilterra sono andato a vedere una minor, la non-league, la National League, che è la serie C inglese, mi ha molto stupito come anche in un campo di provincia, sì, rifinito con le birre, dove si paga per entrare soldi veri, il calcio è codificato ormai in quel modo, cioè si gioca a calcio con un'estetica internazionale anche nei campi delle zone industriali del nord dell'Inghilterra. stacce, quella è così, ormai è andata così. E questo invece, insomma, la nostra Serie A quest'anno in particolar modo sta regalando poco. Siamo arrivati al termine, abbiamo terminato la top 5. Terza parte di Caffè Paglia, siamo pronti per buttarci in questa parte che sarà un po' diversa. Oggi la puntata è un po' diversa, essendo mancando la Serie A che spesso occupa buona parte della puntata. In questa terza parte di solito c'è il calcio internazionale, che in realtà abbiamo fatto fino adesso, nel senso che sono tutti fermi i campionati e quindi che seguiamo di solito in questa parte, e quindi possiamo andare verso il fritto misto degli sport, perché dedicheremo al tennis. Tra l'altro, non so se avete visto le palline le palline da tennis, ce n'è una su, l'unica su credo sia a Saragozza, rimasta in terra. È su anche quella di Stalingrado all'angolo con Aldo Moro, ma devo dire che passando a vederla la prima cosa che ho pensato è: pensa che bello ruzzolarla in mezzo alla strada. Qualcuno l'ha fatto, anzi molte, pare che quasi tutte siano finite in, più o meno in questo modo. Amnistia, io li amnistierei. Va bene, va bene. Comunque non è questo appunto il momento del tennis, lo sarà dopo. Adesso andiamo a vedere intanto la Sabeletese, perché non ho seguito, questo ammetto, scusami. Volevo chiedere una cosa, se sono io che sbaglio, di solito quando uno giocava la Serie A era il modo per far vedere la Serie B. Mi sembra di ricordare così quando ero ragazzo anch'io. E invece no, non gioca neanche la Serie B. E allora a quel punto, ricollegandomi al discorso di prima, dico: se proprio devo stare ferma la Serie B, perché non convochiamo qualcuno che viene da quel campionato? Vedi che alla fine riporta la Samb. Allora va bene, nel senso, in che senso? Guardando nella prospettiva generale di quest'anno, che tu ti devi salvare quest'anno, sei in linea, se ne sei più 6 mi sembra sopra la zona playout, a meno 2-3 a poco dalla zona playoff, sei su per giù dove dovresti essere. Dov'è il rammarico? Innanzitutto nelle sconfitte, che sono state tante, mi sembra 5-6 sconfitte, tutti di misura, tutte 1-0, 2-1, nessuno ti ha messo sotto veramente, sotto, forse il Guidonia a livello di gioco, ma senza nemmeno esagerare, quindi la qualità è buona. Anche ieri, i primi 20 minuti, dominio, buttate in eccesso 4-5 palle gol nettissime, più un altro paio nel corso della partita. Il problema è quello che continuiamo a perdere punti per strada, nonostante tu alla fine te la giochi, sei sempre in una promossa, te la giochi bene, sempre quei 78.000 allo stadio, cioè alla fine uno non si può neanche lamentare, però sprechiamo tanto. E in Serie C ci servono soprattutto due cose: il portiere, e noi ce ne abbiamo due, uno più bravo dell'altro, Orsini, anche ieri Cutraro, adesso Orsini si è fatto male, c'è Cutraro che sta giocando benissimo anche lui, anche ieri ha fatto una parata, fatela rivedere, parata proprio di livello altissimo, un riflesso va giù per terra in una frazione di secondo, e però non segni perché le palle gol maggiori cadono tutti su Konaté, che fa un lavoro fantastico sull'auto destro, dribbla, crea superiorità numerica, grande falcata, ma non ha la minima idea di come si tocchi un pallone calciando. Ma sai cosa dico, proprio zero, e gli capitano tutti sul piede debole che è il sinistro, e proprio non gli serve nemmeno per camminare, proprio, cioè, arriva all'anno e dice, poi non la sa colpire, sempre da cincischia, sempre le loffe, quelle laterali che rimbalzano col rimbalzero più brutto, e non ti puoi lamentare, alla fine sei dove dovresti essere, il gioco c'è, i ragazzi ci stanno sempre, però Eusepi, sbaffo, no one to re, non la buttano dentro. Non la buttano dentro, il problema è il reparto d'attacco, non è che voglio colpevolizzare qualcuno, quello è il reparto d'attacco principale, ecco, quello lì. Il problema in questo momento per la Sabeletese... Ma si va, i ragazzi vanno bene. Ci sono, bene, siamo contenti, poi insomma, neopromossa, sappiamo la complessità, anche il Campobasso che è poco sopra la Sabeletese, che era la neopromossa dell'anno prima, quindi insomma il percorso è quello. Invece la classifica, ancora l'Arezzo? C'è l'Arezzo che vince 2-1 in casa contro il Bra e approfitta della battuta d'arresto del Ravenna, che va a fare un punticino 1-1 a Livorno. Livorno che è ben dietro, sarebbe la prima delle inguaiate in questo momento del gironcino playout. Uno scudetto sul petto, perché sono quelli che hanno vinto il titolo di campione d'Italia tra le neopromosse della D. Sì, esiste la Pole, sì, c'è anche quello. E c'è uno scudettino. Sì. Bello. peccato non seguirla più. Peccato, ogni tanto mi ci raffaccio per, appunto, per vedere i ragazzi convocati appunto da coach Gianni Chiedo, quindi ogni tanto gli butto ma non riesco più a seguire bene, bene. E il girone F è sempre, l'importante è che ci sia una rosso-blu al comando, eh. Sì, questo, certo, questo... non so chi ci sia, ma sono quasi, adesso sono quasi tutti rosso-blu, insomma, ah, voglio dire, cioè, sono su quello dovremmo essere tranquilli, quello, da quel punto di vista. Hai dati ufficiali del girone? Guarda, c'è l'Ostia Mare in questo momento. So, attenzione, l'Ostia Mare è quella di De Rossi, quella che ha creato De Rossi? Mi sa che se l'ha ricomprato De Rossi, sì, quella... sì, salvò la sua squadra giovanile dal fallimento, insomma, dovrebbe essere lui capoccia ancora. C'ha una riga bianco-viola che sa proprio di calcio minore belga degli anni Ottanta. Sì, è vero. Mi posso sbagliare, ma forse è vestita da EZ? Può darsi, perché EZ sta vestendo un po' tutte le maglie tra Latina, Roma Capulea, capito, tutte quelle zone lì. EZ che presto vedremo ai piani alti del calcio, insomma, del calcio italiano, maglie clamorose. Clamorose, bene, bene, importante questo. Appunto, legato a questa situazione, appunto, sì, l'Ostia Mare viola, bianco e viola. Macron. Che comunque c'è, insomma, tanta roba. Per la serie roba. Di comunque, tanta roba. È un bel livello. E appunto, questo è per quanto riguarda il nostro girone, che vede ancora l'Aquila, ci sono comunque squadre rosso-blu che puntano a venire su, e quindi noi un po' le tifiamo. E non è un grande anno per il rosso-blu del girone F della Serie D, eh? No, non pompa fortissimo quest'anno il rosso-blu. Beh, i più grandi interpreti del rosso-blu sono andati piano. E là davanti si domina, c'è un bel ruolino di marcia all'Ostia Mare, molto bello, perché in 12 partite 34 punti, vuol dire che ne ha lasciati indietro pochi, e davanti all'Ancona e al Teramo, poi il Notaresco che abbiamo imparato. Notaresco che era rosso-blu, ecco, la prima rosso-blu è il Notaresco, quindi in questo momento, diciamo, non è una super annata per il rosso-blu. Chiudiamo l'argomento calcio, lo lasciamo, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto fare i complimenti ad Adidas per quanto riguarda la Germania, perché la divisa della Germania è proprio perfetta, è proprio esteticamente, cioè vintage, perché c'è il richiamo fortissimo di design di iconico di Italia 90, è moderno, però soprattutto su bordo manica triplo colore, sul taglio, sui tessuti, è davvero una divisa perfetta. E invece la nostra, con quelle tre strisce enormi di Adidas sulle spalle, color tipo ocra, che dovrebbe essere un omaggio all'oro che ha vinto nel 2006, non ci siamo. Bene, abbiamo chiuso anche con l'ultima occhiata alle magliette delle nazionali in questo caso, la Germania ti è piaciuta molto perché è la seconda volta che intervieni, dice, devo dire, sì. Lo continuerai a fare probabilmente tutto l'anno. Non vedo una realtà in cui una maglia del genere non vinca i mondiali. Ah, dici che... Ma solo, lo vince soltanto per la superiorità proprio estetica, lo vince solo per quello. Solo per quello. Le altre non sono, alcune non sono ancora uscite. È un po' presto. Bella anche quella del Messico, per dire, quindi, cioè, adesso vediamo. Messico è già ai mondiali? È una delle tre. Ah, beh, giusto, organizza. Quindi sì, è una delle tre. Vero. Quello è sicuro che ci sia. C'è stato anche il MotoGP che penso abbia terminato la stagione. Terminata anche un po' amara per i colori Ducati. No, in realtà noi siamo contenti di come è finita, però diciamo che si doveva incorniciare l'anno disastro della sua carriera sportiva, Pecco Bagnaia ci è riuscito benissimo, con molta sfortuna nelle ultime due gare e anche delle prestazioni assolutamente mediocri, al di là di quanto il singolo episodio poi ti possa andare a svantaggiare. Chiude quinto in classifica mondiale, il campione del mondo dell'anno scorso, e questa già di per sé sarebbe una notizia, se non fosse che ci sia arrivati in modo molto doloroso, con una graduale discesa verso la totale inutilità della prestazione. Facciamo però molti molti complimenti a Marco Bezzecchi e all'Aprilia, che hanno fatto un finale di stagione in crescendo, e Bezzecchi nelle ultime quattro, gli ultimi due weekend con la sprint e la gara lunga, ha fatto veramente vedere grandi numeri, e con lui anche Acosta, che sono diciamo i primi non markets della MotoGP in questo momento. Non Ducati. e anche non Ducati, mi sbaglio, giusto? Parliamo di Aprilia e KTM. E KTM, esatto. Tra l'altro, per KTM, che ci è sempre stata abbastanza simpatica, ma affronta una crisi di sovrapproduzione, una di quelle crisi del capitalismo del Novecento. KTM ha i piazzali pieni di bici elettriche che, senza incentivi statali, governativi, in giro per il mondo, sono invendibili. Perché quelle cinesi costano 600 euro e quelle della KTM no. Un po' di più. Un pelo di più. E questo gli impalla i magazzini, gli impalla i piazzali e gli fa mancare la liquidità necessaria per continuare a sviluppare il prodotto più moto che bici, quello poi destinato alla vendita, e innovare poco anche nei segmenti in cui è più forte. Le corse sono il pozzo dei desideri, perché passi e ci butti dentro i soldini sperando di esaudire dei desideri, ma non sempre hanno un grande ritorno economico. Si parla della cessione delle operazioni MotoGP a CF Moto, che è un colosso cinese della produzione di moto. Lascia stare i numeri che fanno in produzione, perché fanno decine di milioni di moto ogni anno, ma ce ne hanno. Sono quelli che hanno presentato quel gioiello all'ultimo ECMA, quello con da l'aerodinamica attiva che si va modificando con le bandiere laterali, è molto bello il prototipo. Se sono loro, posso sbagliare. Sì, stanno lavorando molto bene. La loro moto più venduta in Italia adesso è una fuoristrada da patente a due per neopatentati, piccola, leggera, furba, costa nuova 6.000 euro in un paese in cui la moto più venduta è una BMW da 30.000 euro che pesa 300 kg. Quindi è un interessante cambio di paradigma proprio. Qualcosina l'hanno forse capito anche loro, e altri no, dicevamo. Però è vero questo, insomma, il fatto che sono presenti fa anche bene forse alla MotoGP, certo, avere, certo, avere moto, certo, più moto davanti, interessanti. Mancano i colossi di un tempo. Su cui sta lavorando però il fratellino di Valentino Rossi, ho letto da qualche parte che sta facendo un ottimo lavoro da collaboratore per la Honda, giusto Fio, se non mi sbaglio, il fratellino di Rossi, che ha accettato appunto di ripartire da zero con un progetto comunque di un colosso, che vuole tornare perlomeno a fare buone figure. Ultimamente c'è stato un distacco, soprattutto sì, Honda e Yamaha, diciamo così, hanno penso investito anche meno sulla MotoGP. E Suzuki e Kawasaki avevano già mollato. Sì, quindi insomma c'era già comunque una fase di disinvestimento. Non è che la Ducati è diventata quello che è diventata, anche perché gli altri hanno tirato un po' il braccio indietro, però ha meritato ampiamente di vincere il mondiale, e ha tante moto poi che vanno bene, no? E il discorso era anche quello, anche i team non ufficiali, satellite. E i team satellite sono team che comunque possono vincere le gare. Sì, sì, sì, l'hanno già dimostrato. Il secondo posto mondiale con team Gresini, che non è un team privato che apriamo noi tre domattina, è gente che comunque fa le corse da 30 anni. E il secondo posto nel mondiale di Alex Marquez racconta proprio questo. Da quello, certo, quello è quello che arriva nel mondiale. Quindi chiuso questo, si ripartirà l'anno prossimo, vedremo. Ci sono cambi di guida in particolar modo? Allora, qualche stella che scotta c'è, perché nelle dichiarazioni a bocce ferme, diciamo che i Marquez non è che abbiano proprio il tricolore tatuato addosso, cioè vanno a correre dove si corre, alle loro condizioni, e se lo possono anche permettere. Però è ancora presto. Ma Bagnaia è al contratto? Bagnaia è al contratto. Okay. E vediamo chi gli si metterà di fianco, perché questo diventa molto importante per un team ufficiale che comunque quest'anno doveva difendere una meritatissima vittoria mondiale e non ci è riuscito mai proprio, veramente è stato una pessima annata, uno dei peggiori, no, passaggi da uno all'altro. Ma lui con la moto 2025, a parte che l'ha sempre esternato da inizio mondiale, proprio non ci si è trovato a continuare a dire che guarda, questa moto non è per me. Tardozzi gli rispondeva che devi soltanto spingere come fa quell'altro. E è ovvio che un'annata così non va da nessuna parte. Secondo me l'ha proprio data su, è arrivato a un certo punto. È anche vero che stiamo parlando di uno sport dove rischi veramente, devi essere al 120%. Dove c'è del contatto fisico, sai, dove c'è tu l'avversario ti ci devi scontrare fisicamente, cioè devi essere, lo devi superare. Questa è una cosa molto importante che poi tratteremo durante l'anno, magari anche l'anno prossimo, perché ci vuole che siamo pronti prima di affrontarlo. Però ricordatevelo, dove c'è uno scontro fisico, ok? È lì che noi stiamo cominciando veramente a perdere tantissimo. Tanto, poi dopo proseguiremo. Scontro fisico al volo, football americano, hai visto qualcosa? Buffalo ha rivinto molto bene. Te lo volevo dire, prestazione pazzesca del nostro Josh Allen, che no, dico no, anche se io tifo 49ers, perché un quarterback così è letteralmente il quarterback che ogni tifoso di football sogna per la propria squadra. Sai, di quelli proprio trascinanti, tipo divinità che cala dalla... Ieri chiude con tipo quasi 500, 400 yard, 350 pass yard lanciate, 3 touchdown pass, cioè ha passato per 3 touchdown, più 3 touchdown suoi, e più non mi ricordo altro che cosa, cioè la partita veramente dominata, di quell'esplosione, sì, ci ha messo tutto quello che c'ha, quindi potenza, coraggio, precisione, letture, partita clamorosa. Beh, insomma, immagino che tu abbia festeggiato come capita sempre con le vittorie dei Bills. Bevendo birre da 33 e spaccando dei tavoli di plastica, una cosa tipica di noi di Buffalo. Vabbè, insomma, ognuno ha le sue insomma, abitudini, no? 44-32 contro Tampa Bay, quindi comunque... Anche loro con un bel cuore, perché Baker Mayfield è una delle sorprese degli ultimi anni dell'NFL. Nessuno credeva che potesse avere questo tipo di coach un po' matta, buon talento ma nemmeno esagerato, di struttura fisica non in teoria adatto ad un quarto perché è piccolino, e invece c'ha la cazzimma, ce n'ha tanta, ha preso, è lui che alla fine ha ripreso Tampa Bay dal post Brady, e scusami, cioè prendere una squadra che arriva dal post Brady non era, cioè era una missione quasi impossibile. E quindi gran bella partita, i miei Niners vincono anche loro, se non mi sbaglio, siamo 7-4. La nostra faccia alla fine, insomma, nemmeno ci lamentiamo. Segnaliamo per i fan dei Simpson che ci ascoltano l'incredibile record dei Denver Broncos, squadra meme per tanti anni dell'NFL, che in questo momento però sono 9 vittorie e 2 sconfitte. Vanno, camminano, e si segnala un'altra incredibile prestazione del difensore più forte dell'NFL in questo momento da qualche anno, che è Myles Garrett, di quelli sfasciati dei Cleveland Browns, che però hanno un difensore epocale. Ieri Myles Garrett a un certo punto su Lamar Jackson a metà partita contava già 4 sack. 4 su Lamar Jackson, che è il quarterback più mobile della storia tutta della NFL, ok? E già ne contava, poi non so come è finita. Parliamo di un difensore davvero generazionale, epocale, di cui si comincia a vociferare di voci di trade. Vabbè, cioè non può stare tutto. Ok, ha dato quello che doveva dare alla squadra che l'aveva scelto. In America c'è questa cosa: i giocatori spesso vengono riconosciuti come grandi o meno, eroi o meno, in base a quanto danno alla squadra che li sceglie. Cioè, se la lasciano subito, oppure solo dopo averci vinto, oppure solo dopo averla portata, oppure se non la lasciano mai. Lui è uno di quelli che è considerato, ha dato tutto il suo prime praticamente ai Cleveland Browns, insomma ce ne vuole pure tanta. Si vocifera di trade, vediamo. Vedremo. Potrebbe essere interessante. Rimaniamo negli Stati Uniti col basket, chiudiamo dando un'occhiata all'NBA, che sta arrivando alla 15ª partita neanche, quindi ancora molto molto molto indietro, però è evidente che la caccia al back to back per Oklahoma City Thunder è realistica. 13 vittorie, una sconfitta per loro, nettamente primi in tutta la NBA, al secondo posto nel girone ovviamente Denver Nuggets, altra squadra che si è un po' invece rinforzata a fianco a Jokic, che fa cose clamorose, sta viaggiando tripla doppia di media, sta facendo situazioni incredibili. Devo dire anche che è un po' frutto anche del nuovo basket questa esplosione delle statistiche, cioè ci sono triple doppie in ogni partita ormai, è ovvio che giocando molto più in attacco, giocando molto più liberi, e quindi insomma con questa situazione, e poi l'assist negli Stati Uniti è il passaggio a un tiratore qualunque tipo praticamente, quindi insomma anche quello solo vediamo statistiche che non vedevamo negli anni 90, ma anche perché insomma è cambiato il gioco, è una bolla. Vediamo anche delle partite che sì, ok, hai i supplementari, ma come Utah contro Chicago di ieri finiscono 150-147. Adesso non vorrei aprire la polemica in stile Premier League. Quanti danni ha fatto Steph Curry a questo sport? Solo Gesù lo sa. Probabilmente sì. Secondo me, più che Curry, questa cosa è stata influenzata da NBA Jam, quello 3 contro 3, quel pallone infuocato. Questi sono gli effetti di lunga durata di quell'estetica del basket. Due contro due. Specifichiamo, non voglio farmi dire brutte parole. È un grandissimo Steph Curry. ok, la mia era una battuta per far capire che comunque è l'uomo che ha effettivamente modificato lo stile di gioco, certo, con la sua pericolosità, con la sua incredibile talento da tirare da lontano, ha costretto effettivamente il gioco a cambiare. Quindi era questa la battuta, poi cioè, però gli effetti collaterali, insomma, sono quelli. A est invece Detroit Pistons, un po' a sorpresa, anche se ovviamente essendo una squadra che è arrivata ultima per parecchio tempo ha potuto scegliere buoni giocatori. Questo è quello che accade nello sport americano, in particolar modo questo è proprio quello che deve accadere. Infatti dopo anni di Oklahoma stessa, anche è stata brava a scambiare giocatori prendendo scelte di altri. È lì che devi essere bravo. È stato bravo in quel senso lì. Detroit l'ha fatto con le sue scelte, sta appunto 11 vinte, 2 perse, quindi mi sembra molto bene. E ci sono i New York Knicks che quest'anno sono una reale contender a est, una delle favorite. Allora, ovviamente New York Knicks sappiamo avere un po' anche lì. Abbiamo visto il tennis esplodere in Italia, ok? Ne abbiamo visto una barca svizzera vincere la Coppa America, ok? Vediamo se riusciremo mai a vedere i Knicks riuscire ad alzare il trofeo, non mi ricordo come si chiama il trofeo, l'anello. Cioè, c'era proprio il nome, il trofeo, adesso non mi ricordo come si chiama, però Larry O'Brien, qualcosa del genere. Larry O'Brien è il football americano, secondo me. No, quello è Lombardi. Vince Lombardi. Quello è il Vince Lombardi Trophy, non mi ricordo. Vediamo se riusciamo a avere Stinix a sollevare il trofeo della NBA, vediamo. Allora lo speriamo, da un certo punto di vista, insomma, squadra simpatia. Basket italiano velocemente, Fortitudo perde? Perde a 100, così, perché cioè non a 100 come punteggio, ma a 100 come città. No, no, molto sotto i 100, e è andata così, la striscia poteva andare avanti per un po', ma non così tanto. E poi abbiamo anche tanti fortunati, cambiato l'americano, è arrivato quello nuovo, insomma, deve un attimo ambientarsi, arriverà fino a Natale, quindi l'infortunio di Moore è appunto purtroppo un po' più lungo. La Virtus non ha giocato, stasera. A proposito di Virtus, però c'è una partita importante che insomma si deve giocare in settimana, c'è Virtus Maccabi, sarebbe meglio spostarla da lì. Questo è quello che il mio consiglio. Non voglio prolungare troppo il discorso, tu se so che non vi piace, però mi volevo unire al saluto di quell'incredibile giocatore che era Richardson. Ok, ora io non ho mai stato un enorme esperto di basket, però me lo ricordo anch'io, quindi immagina quanto era grande il personaggio. Okay? Sì, personaggio veramente clamoroso. Veramente clamoroso, che se n'è andato proprio in questa settimana. A questo punto ci dobbiamo fermare. Ultima parte di Caffè e Paglia di quest'oggi. Oggi abbiamo detto che la puntata sarebbe stata un po' diversa dal solito. Abbiamo anche un ospite, un piacere rincontrare Luca Zali. Ciao Luca, ben arrivato qui a Radio Città Fujiko. Ciao Federico, ciao a tutti, è un piacere rincontrarti dopo quanti anni? Beh, una ventina, una cosa del genere. Forse anche di più, però forse dai, ci siamo riconosciuti. Diciamo 20, così lo diciamo, non facciamo capire che siamo vecchi. Ci siamo riconosciuti, quindi vuol dire che è importante. Sì, vuol dire che non siamo cambiati così tanto. No, in particolare tu ti sei tenuto in super forma. Luca è un appassionato di tennis che è, diciamo, è appassionato di sport. Possiamo dire che tu sei sempre stato appassionato di sport in generale. In generale, certo, dalla pallacanestro, quando in gioventù anch'io nel mio piccolo ho partecipato nei piccoli tornei, poi lo sci, grazie a mio padre che mi portava sui campi di sci, per finire il tennis, che è sfociato proprio alla fine, diciamo, il mio sport vero è il tennis. Sarebbe stato meglio in gioventù, ai 4-5 anni, quando si inizia veramente a giocare, però va bene lo stesso, mi sono tolto le mie soddisfazioni. E adesso insegni tennis, segui, cioè fai anche un altro lavoro, sì. Però sei riuscito, la tua passione, a metterla dentro a questa cosa. In particolar modo, forse se girate in qualche edicola la trovate, è uscito anche un tuo libro, hai scritto anche un libro legato a questo momento del tennis. In particolar modo racconti la vittoria della Davis, il ritorno alla vittoria della Davis dell'Italia. Sì, è stato un doppio viaggio, sono stato anche nel 2023 e nel 2024, un doppio viaggio a Malaga per assistere alle finali di Coppa Davis maschile e anche della Billie Jean King Cup femminile, che ricordiamo che nel 2024 ci ha portato la vittoria anch'essa. Un doppio viaggio partito, come ho scritto nel libro, come anche ho detto nella presentazione di ieri a Palazzo da Curso, un doppio viaggio tra virgolette inaspettato, nel senso siamo partiti specialmente nel 2023, dopo 47 anni che mancava il titolo dalla Davis dal Cile del 76, un viaggio turistico è stato, però mano a mano che si andava avanti con gli eventi la convinzione è sempre stata maggiore e ci siamo riusciti a arrivare a questo trionfo incredibile. Il 26 novembre 2023 contro l'Australia, bissato, quindi dopo 47, ripeto, lo sottolineo perché dopo 47 anni dall'ultima vittoria del 76 del Cile, bissato nel 2024, quindi abbiamo rifatto il viaggio con una speranza maggiore rispetto all'anno precedente, però era sempre un viaggio, infatti il ritornello del libro era succede, ma se risuccede è risuccesso, quindi anche nel 2024 abbiamo bissato questo grandioso trionfo insieme, lo voglio rimarcare, alle ragazze perché ci hanno portato la Billie Jean King Cup e ho assistito anche a questa grandiosa vittoria. Certo, quindi stiamo parlando dal punto di vista sportivo per l'Italia di un ritorno un po' tipo il Bologna che vince la Coppa Italia, ecco, la distanza è molto simile, qualcosa di più il Bologna ma poco, per uno sport che è cresciuto negli ultimi, diciamo, 15-20 anni in maniera importante dal punto di vista sia, mi dicevi prima fuori dalla diretta, dei praticanti in generale che dei grandi giocatori. Sì, ci sono stati, secondo me, anche l'ho scritto nel libro, due grandi momenti, il 76 con la vittoria in Davis e i successi di Adriano Panatta. E da lì, e lì il tennis in quegli anni è diventato uno sport incredibile. Dopodiché è un po' scemato come interesse, come praticanti, affiliati, e riesploso incredibilmente in questi ultimi 2-3 anni, io l'ho scritto anche nel libro, con l'effetto Sinner, ma non solo, nel senso che la federazione fa un lavoro enorme alle spalle e incentiva i circoli, incentiva i praticanti, ci sono più di 1 milione di tesserati, tra cui le racchette in classe, che sono il progetto nelle scuole, quindi la FTP va nelle scuole, va dai bambini. E questo è il secondo grande momento di esplosione esponenziale, con un numero uno che abbiamo al mondo, cioè adesso è numero due, però per noi è numero uno e io, secondo me, se anche secondo voi, penso, se non avesse avuto quei 3 mesi di stop sarebbe rimasto numero uno anche. Sì, se la giocano, in questo momento il tennis ha veramente due numeri uno in un certo senso, sono due giocatori che sono al di sopra del terzo con grande distacco, no? Certo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono come tutti gli appassionati, anche il più comune che non ha mai visto il tennis si accorge che questi due sono veramente sopra gli altri. E volevo dire un'altra cosa, cioè il tennis è, tu mi hai chiesto prima del movimento, e avere un numero uno al mondo che trascina il movimento tennistico, abbiamo le ATP Finals in Italia, abbiamo l'Internazionale d'Italia a Roma, abbiamo le Davis Cup Finals per 3 anni, ha riportato il tennis al centro, lo sport in generale, il tennis in particolare al centro dell'interesse, Super Tennis TV, una TV in chiaro che permette di vedere tutti il tennis, quindi anche il non appassionato, il non praticante si è incuriosito, e adesso anche lo parlano dappertutto, nei bar, dovunque, quindi cose che fino a 5 anni fa non avveniva, ecco. Quindi tu da appassionato di lunga data hai visto proprio crescere questa cosa attorno a te, nel senso, certo, che tu appunto già il tennis lo seguivi anche ai tempi in cui sì, in Italia era poco seguito, si vedeva il livello, anche perché gli incassi dei tennisti sono poi collegati al fatto, esatto, che c'è gente che li segue, se no non prenderebbero quei soldi, esatto. Tra l'altro, a differenza magari di altri sport professionistici, il tennista guadagna se gioca e se vince, non ha un contratto, a parte gli sponsor, che ovviamente tutta la parte esterna, però sì, no, poi giustamente quello che dice te, e poi ti volevo dire anche un'altra cosa, l'ho scritto nel libro, mi fai venire in mente qualche spunto del libro, ho fatto un pezzo dove ho detto che i tennisti professionisti, con delle testimonianze che ho raccolto dai giocatori, dalla 100ª posizione in giù, della classifica ATP fanno fatica a vivere, tra virgolette, perché tra i viaggi, gli alberghi, gli allenatori, gli introiti non coprono, gli introiti tassati, tra l'altro, non coprono le spese. Quindi noi adesso vediamo questi primi dieci nel mondo, tra cui ci sono la Paolini e anche Musetti, e vediamo Sinner e Alcaraz che guadagnano milioni di euro, però di dollari o di euro, però c'è anche questa realtà, cioè dalla centesima di posizione in giù il tennista fa fatica. Sì, nel senso che, allora, tornando al discorso che stavo facendo io, il tennista prende se non ha un contratto di X milioni, che va come va la squadra, che può essere il calciatore, che può avere dei bonus in più, esatto, se fa cose, però rimane quello contratto per 1, 2, 3, 4 anni, quello che è. Il tennista se la gioca su ogni singolo torneo. I tornei si giocano in tutto il mondo, e quindi se tu vuoi prendere dei punti dei punti in un torneo, devi viaggiare, prendere l'aereo, portarti dietro il preparatore, l'allenatore, e quindi altra cosa, appunto, dicevi, lo staff è lo stesso di una squadra, però è su un giocatore, cioè esatto, spese. Infatti non tutti se lo possono permettere, nel senso Sinner e Alcaraz, vediamo anche in TV, hanno 10 persone, no, nel box, gli altri uno, Medvedev ne aveva uno, anche Rublev, quindi che sono giocatori top 15, però non tutti o per scelta o per possibilità se lo possono, diciamo, permettere. Sì, è giusto ricordare che c'è appunto quella parte sotto che è fatta da veri appassionati, sì, sportivi, che prendono su l'aereo magari cercando di anticipare. Immagino alcuni giocatori che vanno a vedere su Ryanair, no? Che fra sei, sì, mesi c'ho un torneo che va lì, sì, quanto, sì, costa il biglietto, esatto, e vado perché posso permetterlo. Comunque non è così, appunto, una volta, praticamente inizialmente il tennis è sempre stato sport abbastanza d'elite, costoso, diciamo, sì, così. Sì, sì, però adesso sì, hai ragione, giustissimo, però ultimamente è diventato anche uno sport di massa, anche prima dell'effetto Sinner. Sì, ma credo che, a parte che l'effetto Sinner, secondo me, cioè Sinner era impensabile, cioè così grande, sì, un giocatore così grande. Il lavoro della federazione è precedente a Sinner. La cosa che fa piacere da appassionati di sport, anche che non seguono quello, è vedere che se c'è una federazione che fa dei passaggi giusti, dopo poi le cose succedono. Poi Sinner, ciao, è stata la botta, sì, di culo della federazione. Sì, sì, sì, sì, no, giusto, perché la federazione è da anni che lavora, l'ho scritto anche nel libro, con le racchette in classe a scuola, con supporti ai circoli, supporta le squadre, ha creato un canale TV in chiaro, Super Tennis TV, lavora tantissimo, e il presidente Binaghi, Michelangelo Dell'Edera, scusa se lo ringrazio, è il team manager della squadra, il direttore dell'istituto di formazione Roberto Lombardi, che mi ha fatto la prefazione stupenda, e ieri è venuto anche al mio libro, quindi c'è un lavoro dietro. E chiaramente dopo i risultati si sono visti da Sinner, ma non solo Sinner, ricordiamogli anche tutti gli altri, perché gli altri, trainati, diciamo, dall'effetto Sinner, sono esplosi in maniera incredibile. Li voglio anche dare la Paolini, la Bronzetti, Darderi, Musetti stesso, Cobolli, insomma, Sonego, quindi tutta gente che l'ha anche detto Sonego, che in un torneo Wimbledon 2025 contro Nakashima, in un turno di qualificazione, ha notato con l'occhio Jannik Sinner dal balconcino degli spettatori, e questo l'ha detto lui, proprio lui l'ha caricato tantissimo ed è riuscito a portare a casa il match. Quindi l'effetto Sinner è anche questa cosa qua. Esatto, in questo momento è vero, il Sinner è comunque in questo momento un esempio positivo, molto positivo, per anche tutto il resto del movimento. Diciamo, Sinner è Sinner, e quindi è stato, appunto, è un fenomeno, e quindi lo è diventato, lo sarebbe diventato probabilmente in qualunque federazione del mondo il numero uno, nel senso che quello è nato. Il numero di giocatori invece presenti nella top 100, diciamo così, ma anche insomma nei tornei che contro, quello invece è il frutto del lavoro della federazione, sì, secondo me, no? Ed è quello che, per dire, prima parlavamo della crisi dell'Italia in quanto squadra di calcio sportivamente, e secondo me proprio lì è la federazione, sì, di calcio che ha lavorato male in questi anni. Siete voi gli esperti, però l'esempio, l'esempio del, del tennis è anche questo, no? Dove c'è una organizzazione e una situazione. Adesso Bologna, dicevi, come dicevi tu, per 3 anni sarà la, la sede della finale della Coppa Davis. La Coppa Davis è, diciamo così, quella cosa che può assomigliare di più al campionato del mondo? No, è il campionato del mondo del tennis. Si può definire campionato? No, no, sicuramente. È l'unico evento a squadre, sì, nel senso dove le nazioni giocano a squadre in un ovviamente sport in cui diciamo ognuno gioca da solo, sì, o col suo compagno di doppio, esatto, al massimo, esatto, che però non, può non essere della tua stessa nazionalità nei tornei. Esatto. Questa è la Coppa Davis, invece arriva a quello, e devo dire un format un po' rivoluzionato, ma però che porta grandi ascolti su questa fase finale che appunto dicevi è una Final Eight, 8 sì, squadre, quindi 8 nazionali, quindi il meglio delle 8 nazionali del tennis, selezionate un po' come parlavamo dell'Italia di calcio, calcio, immagino con un, dietro un delle qualificazioni, qualificazioni, cioè, quindi tutte qualificate. Sì, sono, sono, allora la Final Eight quest'anno, allora sono 3 anni in Italia sicuramente, quest'anno Bologna, poi ancora non ne siamo sicuri, o Milano-Torino, oppure ancora Bologna stessa, ancora no, però per questo 3 anni in Italia sicuro. Final Eight, a parte l'Italia che era, ha avuto una wild card come nazione vincitrice dell'anno passato edizione e anche ospitante, e tutte le altre se la sono giocata tra virgolette, nel senso hanno fatto un, 2 turni di qualifiers, uno dopo l'Australia, uno dopo l'US Open e l'altro dopo l'Australian Open, per giungere poi dopo alle, a queste Final Eight, quindi 7 se la sono giocata e 8 l'Italia è qualificata di diritto a, alla Final Eight. Final Eight che è quella formula come è stata anche gli altri anni, cioè quarti di finale, semifinale e finale, 3 set, non di più, e 3 incontri. E cosa che è cambiato, che ne parlavamo prima Federico, è cambiato il prima, il, diciamo il pre-Final Eight, cioè mentre da quest'anno con la rivoluzione sono venuti questi 2 qualifiers, che sono 2 turni preliminari, che qualificano le final, le 8, diciamo, le 8 più importanti per giocarsi la Coppa. E invece fino all'anno scorso c'era, l'abbiamo avuto qua in Italia a Casalecchio di Reno, un group stage dove c'erano quindi 4 gruppi da 4 squadre, di cui uno l'abbiamo avuto a Casalecchio di Reno per 3 anni, e da queste 4 squadre ne uscivano 2 per giocarci poi dopo le Final Eight, che sono stati a Malaga negli ultimi 3 anni in pratica. Quindi è cambiato un po', quindi è stato abbandonato il qualifiers di settembre, che era a settembre, questi gironi, questi 4 gironi in 4 località diverse tra cui Casalecchio, per arrivare invece a questi questi turni di eliminazione diretta. E è cambiato anche la formula, in questo senso sono 5 incontri, quindi si torna un po' alla vecchia Davis, quella sì, certo, quella che ricordo, esatto, io però giocavano 5 incontri, allora giocavano in 5 set, stavolta invece hanno tenuti 3 set perché probabilmente però sono, credo sia più una scelta televisiva, esatto, questa di, esatto, di prediligere i 3 set, esatto, esatto, casa trasferta poi, quindi quindi si è tornato un po' diciamo alle origini, alle origini, un po' su questo, alle origini, quindi tutto questo si giocherà a Bologna, durano una settimana? Dura una settimana dal 18, quindi si parte domani al 23, e dunque l'Italia, visto che ho già i biglietti, esordisce mercoledì contro l'Austria, e poi ci saranno le semifinali venerdì e sabato e la finale domenica. Volevo solo dire una cosa per la nazionale, abbiamo parlato anche ieri al convegno, cioè siamo senza Sinner, è ovvio, ci toglie un punto e mezzo sicuro, giusto? Però c'è fiducia perché gli altri componenti sono... Credo non ci sia neanche Musetti? Non c'è neanche Musetti. I primi 2 non ce l'abbiamo, però è talmente forte la nazionale, sì, che può anche giocarsela. Sì, ce la possiamo giocare tranquillamente con tutte le altre, è chiaro che la Spagna di Alcaraz probabilmente è la favorita, però c'è grande speranza. Ieri mi diceva anche Michelangelo Dell'Era, il team manager, che ieri l'altro, che lui era più, diciamo una testimonianza, lui era più era diciamo più preferiva giocare all'estero, quindi Malaga e via dicendo, che in Italia, perché quindi venendo andando un po' controcorrente nonostante il pubblico e tutto, perché dice che ci sono molte distrazioni qua in Italia e tutti i giocatori vengono continuamente diciamo distratti da, insomma siamo in Italia, invece all'estero quando eravamo a Malaga eravamo noi là e quindi non c'erano, eravamo solo noi e non c'erano tutte quelle distrazioni che potevano venire, più effetto squadra, più si effetto, riesce a fare, però chiaramente giocando in casa chiaramente è un bel vantaggio sicuramente, insomma, l'obiettivo sarebbe arrivare in finale con la Spagna, questo è, si da, può? Cioè si il può, tabellone si può e potenzialmente sì. Si potrebbe peccato che ci sarebbe stato un sogno la finale Italia-Spagna un Sinner Alcaraz però come ultima magari esatto, decisiva partita, siamo forti lo stesso. Comunque rimane il fatto che siamo insomma in questo momento una delle potenze del tennis, che ne dica Simone, noi siamo una delle potenze del tennis, non l'abbiamo fatto parlare, gli abbiamo tolto anche il microfono, quindi è tutto perfetto, l'avvocato può stare tranquillo e noi siamo arrivati al termine, ti ringraziamo Luca, volevi citare qualcos'altro? No, volevo solamente se un attimo dell'Enito ATP Final, sennò ah che... giusto che ci sono, sì. Sei stato a Torino. Sono stato venerdì a vedere, ho visto l'incontro Sinner e Shelton, chiaramente ha vinto Sinner, l'altro non ha perso neanche un set, quindi per due anni consecutivi non ha perso neanche un set, le ha vinti tutti e due, incredibile. Sì. Allora, volevo solo dire una cosa sulle finals velocemente, l'Enito ATP Finals che dovrebbero essere in Italia quasi sicuramente fino al 2030 e Torino 2026 sicuro, poi non si sa dove dobbiamo chiudere un impatto economico di 600 milioni di euro con un gettito fiscale di 92 milioni di euro e a fronte dei contributi statali di 13,7, un indotto incredibile, un fatturato incredibile, un impatto economico incredibile, strutture ricettive e posti di lavoro. E quindi questo per dire che porta che anche bene. Dobbiamo andare perché tra poco c'è il notiziario. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ci risentiremo. Grazie Federico.